Dapprima non ci furono che vaghe tenebre, dove ci si imbatteva di colpo, come nel raggio proveniente da un'invisibile pietra preziosa, nella fosforescenza di due occhi celebri, oppure nel profilo inclinato, simile a un medaglione d'Enrico IV risaltante su fondo nero, del duca d'Aumale, al quale una dama nascosta nell'ombra chiedeva: «Signore, vuol favorirmi il mantello?» Mentre il principe si schermiva: «Ma perché mai? Vi prego, Madame d'Ambresac!» A dispetto di questa blanda opposizione, lei insisteva a farlo, suscitando per un simile onore l'invidia generale. Ma quasi ovunque, nelle altre barcacce, le bianche divinità abitatrici di quei recessi tenebrosi si erano rifugiate all'ombra delle pareti e restavano invisibili. Tuttavia, man mano che lo spettacolo procedeva, le loro forme vagamente umane emergevano fiocamente, una dopo l'altra, dalle profondità della notte che esse addobbavano e, fluttuando verso la luce, lasciavano affiorare i loro corpi seminudi fino al limite verticale e alla superficie chiaroscura cui i loro visi lucenti s'affacciavano dietro l'infrangersi ridente, spumeggiante e leggero dei ventagli di piume, sotto le capigliature di porpora intrecciate a perle che sembravano seguire, curvandosi, l'ondulazione della corrente. Più avanti, in platea, cominciavano le file delle poltrone, dimora dei mortali separata per sempre dall'oscuro e trasparente reame cui qua e là facevano da frontiera, nella loro superficie liquida e piana, gli occhi limpidi e specchianti delle dee marine. In quegli occhi, infatti, gli strapuntini della riva, le forme dei mostri e abitatori della platea, si disegnavano in base alle pure leggi dell'ottica e secondo il rispettivo angolo d'incidenza, come accade con le due componenti della realtà esteriore, alle quali, sapendo che non possiedono nemmeno i rudimenti di un'anima analoga alla nostra, ci parrebbe insensato rivolgere un sorriso o uno sguardo, i minerali e le persone che non frequentiamo. Al di qua del confine del loro regno, invece, le radiose figlie del mare si giravano di continuo, sorridendo, verso tritoni barbuti aggrappati alle anfrattuosità dell'abisso o verso qualche semidio acquatico che aveva per cranio un ciottolo levigato, con lisci fili d'alga riportati dall'onda e per sguardo un cerchietto di cristallo di rocca. Si chinavano verso costoro, offrivano loro delle caramelle e di tanto in tanto il flutto si schiudeva dinanzi a una nuova nereide che sbocciava solo allora, tardiva, sorridente, confusa dal fondo dell'ombra. Poi, terminato l'atto, non più trattenute dalla speranza d'udire i melodiosi rumori della terra che le avevano attirate alla superficie, le molteplici sorelle, tuffandosi simultaneamente, sparivano nella notte. Ma fra tutti quei rifugi, alla soglia dei quali la non grave cura di discernere le opere degli umani conduceva le dee curiose e inaccessibili, il più celebre era il blocco di semioscurità conosciuto come la barcaccia della principessa di Guermantes. Simile a una dea suprema che presiede da lontano ai giochi delle divinità inferiori, la principessa era volutamente rimasta un po' sul fondo, su un divanetto laterale rosso come uno scoglio di corallo, accanto a una vasta riverberazione vitrea, che era probabilmente uno specchio, e faceva pensare alla sezione perpendicolare, liquida e oscura, praticata da un raggio di luce nel cristallo abbagliato delle acque. Piuma e insieme corolla, al pari di certe fiorescenze marine, un grande fiore bianco, lanuginoso come un'ala, scendeva dalla fronte lungo una guancia della principessa, assecondandone la curva con morbidezza carezzevole, amorosa e viva, e quasi in parte racchiudendola, come un uovo rosato nella dolcezza di un nido d'alcione. Sulla chioma della principessa si stendeva e s'abbassava fino alla sopracciglia ed era ripresa poi più giù, all'altezza della gola, una reticella fatta di conchiglie bianche, di quelle che si pescano in certi mari australi, cui erano mischiate delle perle, mosaico marino appena uscito dalle onde e a tratti sprofondante nell'ombra in fondo alla quale, tuttavia, la scintillante mobilità degli occhi della principessa rivelava, anche allora, una presenza umana. La bellezza che la innalzava ben al di sopra delle altre favolose figlie della penombra non era iscritta per intero, materialmente e inclusivamente nella nuca, nelle spalle, nelle braccia, nella figura della principessa. Ma, incompiuta e deliziosa, la sua linea era l'esatto punto di partenza, l'ineludibile avvio di una serie di linee invisibili addentrandosi nelle quali l'occhio non poteva fare a meno di prolungarle, meravigliose, scaturite intorno a lei come lo spettro d'una figura ideale proiettata sulle tenebre. «È la principessa di Guermantes», disse la mia vicina al suo accompagnatore, non trascurando di premettere alla parola «principessa» un numero di più sufficiente a indicare la risibilità di quella qualifica. «Non ha fatto certo economie di perle. Se ne avessi altrettante, non penso che le metterei così in mostra. Non mi sembra molto fine». Ciò non toglie che, riconoscendo la principessa, tutti gli spettatori intenti a scoprire chi ci fosse a teatro si sentissero risorgere in cuore il trono legittimo della bellezza. In effetti, per la duchessa di Luxembourg, per Madame de Morimbal, per Madame de Saint-Hubert, per tante altre, quel che consentiva di identificarne il viso era la connessione d'un gran naso rosso con un labbro leporino o di due guance rugose con un paio di baffetti, tratti sufficienti d'altronde ad affascinare, giacché, non avendo altro valore che quello convenzionale di una scrittura, erano come le lettere di un nome celebre e impressionante, ma suggerivano altresì l'idea che la bruttezza ha qualcosa di aristocratico e che non importa che il viso di una gran dama, purché distinto, sia bello. Ma come certi artisti quali, invece che con le lettere del proprio nome, firmano le loro tele con una forma bella di per sé, una farfalla, una lucertola, un fiore, così era la forma di un corpo, di un viso deliziosi che la principessa poneva nell'angolo del proprio palco, dimostrando in tal modo che la bellezza può essere la più nobile delle firme. Agli occhi degli specialisti di aristocrazia, la presenza di Madame de Guermantes, che a teatro portava soltanto chi fosse stabilmente ammesso all'intimità della sua cerchia, era il miglior certificato d'autenticità del quadro formato dalla sua barcaccia, sorta d'evocazione di una scena della vita familiare e particolare della principessa nei suoi palazzi di Monaco e Parigi. Poiché la nostra immaginazione è come un organetto di barberia scassato, dal quale vien fuori sempre qualcosa che non corrisponde all'aria annunciata, dentro di me, ogni volta che avevo sentito parlare della principessa di Guermantes Baviera, s'era messo a cantare il ricordo di certe opere del XVI secolo. Adesso che la vedevo offrire dei canditi a un corpulento signore in frac, ero costretto a staccarglielo di dosso, anche se mi guardavo bene dal concluderne che fossero, lei e i suoi invitati, creature simili alle altre. Mi rendevo perfettamente conto che quel che facevano era un semplice gioco e che per preludere agli atti della loro vita vera, la cui parte decisiva non era certo vissuta lì, essi si adeguavano a riti per me misteriosi, fingevano di offrire e rifiutare dolci con gesti spogliati del loro significato e stabiliti a priori, come i passi di una ballerina che di volta in volta si solleva sulle punte e gira intorno a una sciarpa. Chissà, forse mentre offriva i suoi canditi, la dea mormorava con ironia, giacché la vedevo sorridere, «Volete un candito?» Che mi importava? Avrei colto una deliziosa raffinatezza nella secchezza voluta, alla Mérimée o alla Meillac, di siffatte parole rivolte da una dea a un semidio ben consapevole, lui, di quali fossero i pensieri sublimi che entrambi riassumevano per quando, verosimilmente, avessero ricominciato a vivere la loro vera vita e pronto a rispondere con la stessa enigmatica malizia, prestandosi al gioco, «Sì, grazie, una ciliegia». E avrei ascoltato quel dialogo con avidità, come fosse una scena del marito della debuttante, dove l'assenza di poesie e di pensieri elevati, cose a me tanto familiari e che Meillac, a mio avviso, sarebbe stato capacissimo di metterci, mi sembrava di per sé stessa un'eleganza convenzionale e proprio per questo tanto più misteriosa e distruttiva. «Quel tipo massiccio laggiù è il marchese di Ganassi», disse con l'aria di chi la s'allunga il mio vicino, che aveva frainteso il nome bisbigliato dietro di lui. «Il marchese di Palancy, collo teso, volto obliquo, il grande occhio rotondo incollato al vetro del monocolo, si spostava adagio nell'ombra trasparente e non sembrava accorgersi del pubblico della platea più di un pesce che passa e ripassa, ignorando la folla dei visitatori curiosi, dietro la parete di cristallo di un acquario. A tratti si fermava, venerabile, sbuffante e muschioso, e gli spettatori non avrebbero saputo dire se stesse soffrendo, dormendo, nuotando, deponendo un uovo o semplicemente respirando. Nessuno stimolava quanto lui la mia invidia, a causa della sua evidente dimestichezza con quella barcaccia e per l'indifferenza con cui accoglieva l'offerta di canditi da parte della principessa, la quale, in quei momenti, gli lanciava uno sguardo dei suoi begli occhi intagliati in un diamante reso allora fluido dall'intesa e dall'amicizia, mentre quando erano a riposo ridotti alla pura materialità della loro bellezza, al loro semplice fulgore minerale, bastava che un minimo riflesso li facesse oscillare lievemente perché incendiassero la profondità della platea con fuochi orizzontali, splendidi e disumani. Ma poiché l'atto di Phèdre, interpretato dalla Berma, stava per cominciare, la principessa avanzò verso il bordo della barcaccia e, come se fosse lei stessa un'apparizione teatrale, nella diversa zona di luce che si trovò ad attraversare, io vidi mutare non solo i colori, ma anche la materia di ciò che indossava. Nella barcaccia prosciugata, emersa, che non apparteneva più al mondo delle acque, la principessa cessò d'essere una Nereide e apparve inturbantata di bianco e azzurro come una meravigliosa attrice tragica nei panni di Zaira o forse di Orosmane. Poi, quando si fu seduta in prima fila, il dolce nido d'alcione che proteggeva teneramente la rosea madreperla delle sue gote disegnò ai miei occhi, soffice, vellutato e radioso, un immenso uccello del paradiso. Sopraggiunse tuttavia, a distogliere il mio sguardo dalla barcaccia della principessa di Guermantes, una donnicciola malvestita, brutta, gli occhi brucianti, che venne a sedersi, in compagnia di due giovani, pochi posti più in là del mio. Poi il sipario si alzò. Non potei reprimere un senso di malinconia, constatando che non restava niente in me dello stato d'animo d'un tempo, quando, per non perdere nessun dettaglio del fenomeno straordinario che sarei andato a contemplare anche in capo al mondo, tenevo il mio spirito allerta come quelle placche sensibili che gli astronomi collocano in Africa o nelle Antille, in vista dell'osservazione scrupolosa di una cometa o d'un'eclissi. Quando tremavo al pensiero che qualche nube, cattiva disposizione dell'artista, incidente tra il pubblico, impedisse allo spettacolo di svolgersi al massimo livello di intensità, quando ero convinto di non poter fruire delle migliori condizioni per assistervi se non recandomi in quel particolare teatro che era consacrato alla grande attrice come un altare e dove mi sembrava allora che della sua apparizione sotto il piccolo sipario rosso facessero parte, sia pure una parte accessoria, anche i commessi con un garofano bianco all'occhiello che lei stessa aveva fatto assumere, l'incombere della galleria su una platea piena di gente sciatta, le maschere che vendevano il programma con la sua fotografia, gli ippocastani del giardinetto al centro della piazza, tutti quei compagni, quei confidenti delle mie impressioni d'allora, da cui li sentivo inseparabili. Phèdre, la scena della dichiarazione, la Burma, vivevano allora ai miei occhi di una sorta d'esistenza assoluta. Avulse dal mondo dell'esperienza corrente, esistevano in sé per sé. Toccava a me avvicinarle per penetrarne quel che avessi potuto. E certo, pur spalancando gli occhi e l'anima, non ne avrei assorbito che una minima parte. Ma come mi sembrava piacevole la vita! Che poi quella che io stesso conducevo fosse insignificante non aveva importanza, non più dei momenti in cui ci si veste, ci si prepara per uscire, perché al di là di essa esistevano in assoluto, avvicinabili solo con difficoltà, irriducibili a un possesso totale, quelle realtà più concrete. Phèdre, lo stile della Burma.